cerco ali meravigliose, overdose, overdose. Cerco ali meravigliose in over, over, overdose. Cerco ali meravigliose in over, overdose. Cerco ali meravigliose, manco andassi in over. Over fuori di qua, fuori dai guai, dove non sai, dove non ci troverai, dove la notte è buia più che mai, dove i guai sono guai e non ci sono mai. Ci sono soltanto treni da prendere, essere meglio della gente, trascorrere vite e ore sperando che quella televisione, quel comando in guerra, in guerra, il mondo è in guerra, in guerra, perché il mondo è in guerra, in guerra. Tieni a mente 11 settembre per non dimenticare, il mondo è in guerra. Brutto pezzo di merda, pensavo si vivesse in pace, pezzo di uno stronzo, ero solo un ragazzino un po' troppo vivace, pezzo di merda, ero solo un po' vivace, pezzo di merda. Conserva la tua merda per chi ti poi osserva, pezzo di merda. Ero solo un ragazzino che correva a rabbit run, over and over and over again, run, run, run, run away from you. You are the broken road to in my dream. Run away, run away, run away from everything. Run away, run away. I rode to my destiny, unity in my arms, unity in my heart. The beautiful skyscraper I see from my hand. I'm a lyrical genius, speech if you don't understand again. This is my rhyme, my personal relief. This is when I flow on a track like a flow river. Destiny, cry me in a river. Cry me in a river. Cry me in a river like a Justin Bieber. Cry me in a river. Cry me in a river like a Justin Bieber. Cry me in a river dancing, drawing the moon reflecting the water of the lake of Psyche. Destiny, dancing in the mirror reflex of the lake of the Psyche. Lake of the Psyche again. This is my train, I ran away from you and now I'm in the lake of Psyche. Lake of Psyche again. This is not a train, this is when a meditation come a zen. Come a zen, my pure man, I'm a pure man. Destiny, dancing, drawing and mirroring on the moon in the lake of Psyche. This is my destiny, Drake in drawing on lake of Psyche, reflecting the moon. Lake of Psyche, reflecting the moon. With the reflex of the moon, I write, man, run, run, run on the lake of Psyche, man. I draw the mirror reflection on the moon, on the lake of Psyche, destiny.